non faccio mai il vittimismo, no? Io sono abituato managerialmente a parlare sui fatti. Da 4 mesi va avanti questa storia, dico, ma i fatti quali sono? E il prezzo? Allora vediamo se è stato minore o maggiore. La trasparenza della gara? Beh, lo è stata una gara internazionale. Hanno partecipato in pochi, ma se il prezzo è stato maggiore di quei valori che ho detto, forse il fondato sospetto che era un prezzo generoso, forse lo possiamo fare, visto che di sicuro c'era un prezzo di riferimento a cui sarebbe stata messa in borsa. Io penso però che in Italia, diciamo, da un punto di vista mediatico, politico, di confronto, si tende a prescindere dai fatti, quasi a delegittimarsi a vicenda, cioè vige più la delegittimazione a prescindere che non il parlare di un fatto, ancorarsi a quel fatto e dire, ma allora se questo è il problema, qual è la soluzione? Quindi lo fanno per delegittimare lei e F2I? Ma no, me no, perché F2I? Io non mi sei... No, no, ma nemmeno F2I, perché me e F2I non abbiamo... E chi delegittima, mi scusi, ingegner Gamberale? Ma io penso che sia più una contrapposizione politica, io la leggo così, la leggo sul territorio che c'è una contrapposizione politica. Però io penso che siccome il paese, diciamo, lì, qual era il problema che c'era? Come si risolve, come si evita il default del Comune di Milano? Tema di cui si era preoccupata una giunta precedente, il cui problema poi è stato preso dalla giunta successiva.